Rabbia e orgoglio, volontà di protezione della propria identità territoriale e un complesso di superiorità, per dirla con le parole del presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan. Lo Stato centrale pensa ancora oggi che il Veneto sia fatto di gente che lavora soltanto per finanziare gli sprechi, le clientele, le inefficienze del resto della nostra Repubblica. Montebelluna, la cittadina dello Sport System, dove è forte la produzione soprattutto di marchi legati alle attività sportive. Da qui parte il primo grido del Festival delle Città Impresa che fino a domani sera, in più di 200 incontri organizzati in 7 località diverse del Nord-Est, rifletterà sul rapporto fra le due realtà. La parola d'ordine è federalismo fiscale, necessario, dicono istituzioni e imprenditori, anche per far convivere al meglio le città e le imprese del Nord-Est. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore, Montebelluna.